tremenda mira, un error crudele, un cambio troppo rio l'andate in danno, si sveglio mai, più da rimorsi suoi, flagellato non soffre il cor la pena. Dunque se il trono è il letto tuo per te, perdere ancora dovrò le tue promesse. Non men che mio, merendo e figlio tuo, tu m'accordasti sua grandezza. Allora, che politica legge del diadema che l'avversaria mia ma sposa mostra sfoglia mia fronte. Allora tu promettesti di riservare a noi, tolto la madre lo scettro. Se io restai del letto tuo vedova, non lo sia del seggio il figlio. Nel cambio dei miei figli, ingiusto troppo, troppo debole io fui, tiranno padre. Nel giorno che portò la luce a Rambi, Selim dalla sotana nato io tolsi, per melindo supporti a reggi panni, onde privo del regno il tuo l'avesse. Al fonte onde sorti ritorni il sangue, l'erede al trono, alle lor madri figli. E conserva il promesso patrio scettro a lui, che non di stato, ma d'amore ragione, figlio te die. Dimmi accaduto, farsi me la rimembranza amara, se lui vero soldan ruste d'accolse i suoi primi vagiti e i dolci impresse sul di noi volto primi batti. Lascia cad amarlo quel suo essa seguendo, io goda d'un errore che a tutti argiova e che già sei più che marito amante, cangiando a figli miei madre fortuna, si scopra al fin. Tradir non voglio il vero e legittimo erede, e non potrei. Ma lasciam di garrir, quanto far voglio a Rustena, a Rosanna, a figli al mondo. Che Selim non da te, ma suo Natale ebbe dalla soldana, che Melindo non è di lei figlio real, ma tuo. Senti, già costinato, altro tu brani, aggiunger tradimento al primo mio, lo speri in vano. Io mo porruo tuoi detti, niegherò il vero e si opererò che resti fissa nel credere suo Rostena e figli. Onde deluso il tuo pensier, Melindo da vassalli suo re creduto sia, te ferò mille frodi a sol tuo danno e farò sì che sembri per l'antico coprir il tuo inganno. L'audacia tanto d'avanzar pretendi, da mira m'ubbidisci e omai m'intendi.